Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli, che vi ricordo fu scritto da nostro fratello Luca, il medico di letto. Atti degli Apostoli, capitolo 18, leggerò i versetti che vanno dal 24 al versetto 28. Così è scritto: or un certo giudeo, per nome Apollo, oriundo d'Alessandria, uomo eloquente e potente nelle scritture, arrivò ad Efeso. Egli era stato ammaestrato nella via del Signore, ed essendo fervente di spirito, parlava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare francamente nella sinagoga, ma Priscilla ed Aquila, uditolo, lo presero seco e gli esposero più appieno la via di Dio. Poi, volendo egli passare in Acaia, i fratelli ve lo confortarono e scrissero ai discepoli che l'accogliessero. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Dunque, Luca ha voluto farci, sapere di questo nostro fratello di nome Apollo, che era giudeo di nascita. Dice di questo uomo che era un uomo eloquente e potente nelle scritture e arrivò ad Efeso, quindi nella provincia dell'Asia. Apollo conosceva le scritture, era stato ammaestrato nella via del Signore, ed essendo fervente di spirito, dice Luca, parlava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù. Quindi ammaestrava. Ma aveva una lacuna, aveva conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Allora, cosa avvenne? Che Priscilla ed Aquila erano collaboratori dell'Apostolo Paolo, che Paolo aveva incontrato a Corinto. Leggiamo infatti al capitolo 18 queste parole. Capitolo 18 degli Atti, dal versetto 1 al versetto 3. Dopo queste cose, egli, partitosi da Atene, venne a Corinto e trovato un certo giudeo per nome Aquila, oriundo del Ponto, venuto di recente dall'Italia insieme con Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva comandato che tutti i giudei se ne andassero da Roma, si unì a loro. Siccome era del medesimo mestiere, dimorava con loro e lavoravano, poiché di mestiere erano fabbricanti di tende. Dunque, Paolo incontrò Aquila e Priscilla, questa coppia di credenti, a Corinto, quindi nella Caia. Allora, Aquila era dello stesso mestiere di Paolo, un fabbricante di tende. Allora, la cosa particolare qua che vorrei, sottolineare è questa, che Aquila con sua moglie Priscilla si trovavano a Corinto quando Paolo li incontrò e Paolo si unì a loro, per questa ragione, perché Claudio, cioè l'imperatore Claudio, aveva comandato che tutti i giudei se ne andassero da Roma, Ora, questo decreto di espulsione è registrato dalla storia. E è interessante venire a sapere che il Dio si usò dell'imperatore Claudio affinché Aquila e Priscilla andassero via da Roma. Andassero via da Roma e poi naturalmente il Dio li condusse a Corinto, dove evidentemente dovevano incontrare l'Apostolo Paolo e diverranno dei fedeli, diventeranno Aquila e sua moglie Priscilla, dei fedeli collaboratori dell'Apostolo Paolo. Ora questo ci ricorda che il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua, egli lo volge dovunque gli piace. Ricordiamoci che Dio usa anche le autorità da lui stabilite, che siano imperatori, dittatori, che siano, diciamo, primi ministri, presidenti, non importa, re, non importa come si chiamino queste autorità, Dio si usa anche delle autorità per guidare i suoi figlioli, per guidare i suoi servitori. Naturalmente, questo lo fa in accordo con la sua volontà che è sovrana. Il Signore ha una volontà che è sovrana, chi può resistere alla sua volontà? E quindi è bene sottolinearlo questo ogni volta che si parla dell'incontro di Aquila e Priscilla con l'Apostolo Paolo a Corinto. Bisogna andare a ritroso. E appunto poi si trova che cosa? Un decreto di espulsione sostanzialmente da parte di un imperatore che appunto avendo decretato che tutti i giudei se ne dovevano andare da Roma, chiaramente essendo che Aquila era giudeo, anche lui dovette, diciamo, fare i bagagli, come si suol dire, e andarsene da Roma. Ma vedete come il Dio li guidò e ancora oggi le cose non è che sono cambiate. Peraltro vi ricordo, dato che ci sono su questo argomento, mi prolungo qualche altro minuto perché ritengo doveroso ricordarvi anche questo, che Giuseppe e Maria e sua moglie Maria si trovarono a Betlemme quando Maria partorì in seguito ad un decreto dell'imperatore Cesare Augusto, perché questo naturalmente ci fa capire, conferma come Dio guida i suoi anche tramite, diciamo, i decreti, gli ordini delle autorità. Capitolo 2 del Luca. Dal versetto 1, ora in quei dì avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto che si facesse un censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo fatto mentre Quirinio governava la Siria e tutti andavano a farsi registrare ciascuno alla sua città. Ora anche Giuseppe salì di Galilea, dalla città di Nazareth in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. E avvenne che mentre erano quivi si compiè per lei il tempo del parto, ed ella diè alla luce il suo figliolo primogenito e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non v'era posto per loro nell'albergo. Ora, Maria fu la donna che Dio scelse per portare alla luce al mondo il suo figliolo, l'unigenito figliolo di Dio. Allora, notate come Giuseppe dovette andare con sua moglie Maria, che era incinta, perché voi sapete che era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo, prima che i due venissero a stare assieme, no? Quindi, in quando erano fidanzati. Quindi Maria rimase incinta per virtù dello Spirito Santo. Non date ascolto ai rabbini ebrei che dicono bugiardamente, calunniando il nostro Signore, che Maria tradì Giuseppe con un certo con un uomo e appunto Maria rimase incinta di quest'altro uomo. I rabbini si sono inventati tante di quelle menzogne contro Gesù, veramente, che fanno rabbrividire, e queste cose bisogna ricordarle anche per fare vedere chi sono quegli ebrei con cui si sono alleati tanti sedicenti cristiani evangelici che non sanno discernere una pecora da una capra. Cioè, questi cosiddetti cristiani evangelici si sono andati ad alleare con degli anticristi, oltraggiatori, bestemmiatori del nostro Signore Gesù. Ma le cose vanno così, sono i cosiddetti amici di Israele, sì, sono i cosiddetti amici di Israele che naturalmente si guardano dal farvi conoscere queste bestemmie che i rabbini ebrei, e non uno, né due, né tre, tantissimi sono i rabbini ebrei che appunto oltraggiano il nostro Signore Gesù Cristo dicendo che Maria rimase incinta, diede alla luce un bambino che era nato, cioè Gesù, che era nato da un suo tradimento. Allora, quindi, Maria è rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo, prima che appunto Giuseppe e Maria venissero a stare insieme, e dopo che appunto Giuseppe prese per moglie Maria, i due andarono a Betlemme. Betlemme di Giudea. Perché andarono a Betlemme di Giudea? Perché Giuseppe era di Betlemme, era della famiglia e casa di Davide, quindi andò alla città di Davide, che si è chiamata Betlemme. E a Betlemme doveva nascere, secondo quello che Dio aveva preannunziato tramite il profeta Michea, il Cristo. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Quindi queste parole di Dio che aveva proferito per mezzo del profeta si dovevano adempiere, erano un decreto di Dio. E allora il Signore prima fece rimanere incinta per virtù dello Spirito Santo Maria, che era appunto, vi ricordo, a Nazareth, infatti l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazareth ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide. Prima, diciamo, la fece rimanere incinta per virtù dello Spirito Santo, poi fece sì che Giuseppe la prendesse in moglie e poi fece sì che Giuseppe scendesse a Betlemme. Ma perché ci scese? Perché appunto era uscito questo decreto da parte di Cesare Augusto che si facesse un censimento di tutto l'impero. Vedete ancora una volta come è confermato che il Dio si usa a suo piacimento delle autorità, anche di quelle veramente che sono ai vertici di una nazione o di un impero. Quando il Dio ha, diciamo, detto una cosa, quella cosa la farà accadere. E naturalmente talvolta si usa anche delle autorità da lui stabilite. Infatti fu mentre, diciamo, i due si trovavano a Betlemme che venne il tempo del parto. Ecco perché Gesù nacque a Betlemme. Capite? Ma poi avete notato la precisione? La precisione di Dio? Cioè, praticamente quel decreto che uscì da parte di Cesare Augusto uscì proprio al momento giusto. Al momento giusto, ma è sempre così, il Dio opera in questa maniera. Ma torniamo ad Apollo. Allora, Aquila e Priscilla, o meglio, torniamo ad Aquila e Priscilla, comunque, che appunto, perché Aquila e Priscilla sono coinvolti nella storia di questo nostro fratello Apollo, che era un ministro di Dio. Allora, Aquila e Priscilla lo sentirono, capirono che aveva delle lacune quanto alla conoscenza, Allora lo presero seco e dice, gli esposero più appieno la via di Dio. Ecco, poi Apollo, diciamo, espresse il desiderio di andare in Acaia. L'Acaia era ed è la Grecia. Allora i fratelli ve lo confortarono e scrissero ai discepoli che l'accogliessero. Quindi ci fu uno scritto tramite il quale, diciamo, i discepoli che erano ad Efeso raccomandarono il nostro fratello Apollo ai santi della Caia. Che cosa avvenne quando Apollo giunse in Grecia? Ascoltate cosa dice Luca. Egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia. Quindi a chi fu di grande aiuto? Ai credenti. Notate come sia scritto che avevano creduto mediante la grazia. Sì, perché coloro che credono, credono mediante la grazia. Sempre mediante la grazia si crede. Ricordiamoci dunque, fratelli, nel Signore, che noi abbiamo creduto mediante la grazia di Dio. Ah, se non fosse stato per la grazia di Dio, noi non avremmo potuto credere, non avremmo potuto credere. Siamo credenti per la grazia di Dio, non ce lo dimentichiamo mai, e quindi esaltiamo la grazia dell'Iddio vivente e vero. Quindi, fu di grande aiuto, notate che cosa dice la scrittura, di grande aiuto. Non è che c'è scritto Dio aiuto, no, di grande aiuto. Quindi l'aiuto apportato da Apollo, questo ministro di Dio, in Acaia, ai santi dell'Acaia, fu grande, un grande aiuto. E perché? Perché fu grande questo aiuto? Perché con grande vigore, capito? Con grande vigore, non era uno che faceva, diciamo, l'opera del Signore fioccamente, che parlava tanto per parlare, no, con grande vigore, che faceva? Confutava. Chi? I giudei. E lo faceva pubblicamente, in pubblico, li confutava. Che significa confutare? Perché uno legge qua, confutava. Ma cosa significa confutare? Allora, confutare, parole prese da un dizionario, ribattere un'affermazione, una ragione, eccetera, dimostrandola erronea o infondata. Confutare una dottrina, un'opinione, un argomento, una tesi, un'accusa, una testimonianza, una calunnia. Un errore? Una calunnia. Quanti calunniatori che ci sono. Bisogna confutare anche le calunnie. Bisogna confutare anche le calunnie, non solo le false dottrine. Anche le calunnie, perché i calunniatori sono tanti. Dunque, confutare dunque significa dimostrare che una dottrina, un'opinione, un argomento, una tesi, o un'accusa, una testimonianza, è falsa, capito? Cioè, praticamente si tratta di dimostrare l'erroneità, no, di una, facciamo un esempio, di una dottrina. Quella dottrina è falsa, allora mediante la confutazione avviene che quella dottrina viene dimostrata falsa, cioè per quella che è. Ora, noi leggiamo qui che Apollo con grande vigore confutava pubblicamente i giudei. I giudei. Qualcuno dirà, ma i giudei vanno confutati ancora oggi? E come se vanno confutati ancora oggi i giudei? Pubblicamente, come allora. Preghiamo il Dio che susciti veramente uomini come Apollo, che con gran vigore confutino pubblicamente anche i giudei, diciamo. Anche i giudei, perché vanno confutati anche tanti che non sono giudei perché insegnano false dottrine. Allora, Apollo confutava pubblicamente i giudei, e lui era giudeo, attenzione, Apollo era giudeo, però confutava pubblicamente i giudei. Ora oggi direbbero che era un antisemita, perché sapete, quando si confutano i giudei, gli ebrei, gli israeliti, sono sempre sinonimi, ricordate, Allora, quando si confutano gli ebrei, oggigiorno, la prima accusa che ti viene rivolta, anche da sedicenti cristiani evangelici, tu sei un antisemita! E ti lanciano contro questa calunnia, perché è una calunnia, eh? Tu sei un antisemita. Cioè, sostanzialmente, cosa vogliono dire? Tu odi in maniera viscerale gli ebrei. Li vorresti distrutti, annientati! No, no, guarda, voi proprio avete sbagliato persona, proprio avete sbagliato persona, perché io, sapete cosa voglio dei giudei? Voglio la loro salvezza. Guardate un po', io voglio la loro salvezza. Infatti, vi annunzio che cosa? L'Evangelo della Grazia, quello che voi non gli annunziate, perché voi siete amici di Caiafa, eh? Voi siete amici di Caiafa, voi siete amici degli anticristi, e quindi l'Evangelo non glielo annunziate, come neppure il ravvedimento. Io invece, dato che non sono amico degli anticristi, io gli annunzio ai giudei l'Evangelo, e gli dico di ravvedersi, gli dico di ravvedersi. Infatti i giudei perché mi odiano? Perché mi disprezzano? Perché? Perché predico l'Evangelo, non possono odiare voi. Che gli andate a dire, voi siete il popolo di Dio, voi siete il popolo di Dio, benedetto da Dio, voi andrete in cielo, anche senza credere in Gesù, vi salverete osservando la legge, la Torah. E come fanno ad odiarvi? Me lo spiegate come fanno ad odiarvi, a disprezzarvi, a sputarvi in faccia? Ma come fanno? Ma come fanno? Ma come fanno gli ebrei a odiarvi? Disprezzarvi come odiavano l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro, Stefano, ma come fanno? Non possono! Perché voi gli andate a dire proprio tutto tranne l'Evangelo, gli annunziate tutto tranne il ravvedimento, l'Evangelo, ma perché questo? Perché voi non credete nell'Evangelo. Se voi credeste nell'Evangelo, voi gli annunciereste l'Evangelo agli ebrei disubbidienti, e invece che gli andate a dire? Che gli andate a dire? Ah, voi siete figli d'Abramo, voi siete benedetti col credente Abramo. Come benedetti col credente Abramo? Ma se non credono nel figlio di Dio, non sono benedetti col credente Abramo, perché sono degli increduli, loro si basano sulle opere della legge, sono sotto maledizione, glielo dovete dire, ebrei, siete sotto la maledizione della legge, perché è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Voi mi state illudendo pensando di poter essere giustificati osservando la legge di Mosè, perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto, perché la scrittura dice, scritta in Abacuc nei vostri profeti, nel libro dei profeti, il giusto vivrà per la sua fede. Questo bisogna dire agli ebrei, bisogna dirgli ravvedetevi, credete nell'Evangelo. Credete che Gesù di Nazareth è il Messia o Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti, il terzo giorno, secondo le scritture, apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Credete in questo messaggio che è la buona novella del regno di Dio e sarete salvati, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Sottoponetevi alla giustizia di Dio. Voi che rifiutate la giustizia di Dio che viene dalla fede, sottoponetevi alla giustizia di Dio. Perché Cristo, Cristo è il termine della legge per essere giustizia ad ognuno che crede, quindi credete nel Signore Gesù Cristo e sarete giustificati. Non continuate a illudervi, pensando che osservando la legge di Mosè sarete giustificati, perché se voi perseverate nella vostra incredulità, ve ne andrete nello Sheol, all'inferno, nel fuoco dell'inferno. Questo bisogna dirgli agli ebrei. Altro che siamo vostri amici, siamo al vostro fianco, nelle guerre che sorgono. Ma scusate, ma io dico una cosa, no? Ma a noi, ma delle guerre che lo Stato di Israele affronta da una vita, ma a noi cristiani, sì, chiaramente a livello biblico siamo interessati a quello che avviene, diciamo, a livello geopolitico, diciamo, quando c'è di mezzo il popolo Israele, ma io dico una cosa, no? Ma perché noi ci dobbiamo veramente lasciare coinvolgere in cose che riguardano uno Stato? Guerre tra Israele e palestinesi ce ne sono sempre state. Ma la conoscete la Sacra Scrittura? Ma la conoscete la storia antica di Israele? Quando veramente c'erano le guerre tra gli ebrei e i filistei? Queste guerre, diciamo, tra gli ebrei e i palestinesi, della striscia di Gaza, ci sono da millenni. Perché si odiano gli ebrei e i filistei? I palestinesi sono i discendenti degli antichi filistei che appunto vivevano lì nella striscia di Gaza. E allora io mi dovrei lasciare coinvolgere in che cosa? In questioni politiche, militari. Io prendo atto che questa è una delle tante guerre tra ebrei e filistei. Viene sparso sangue da una parte, sangue dall'altra. Le guerre sono tutte così, sono tutte così. Le persone si ammazzano, si odiano. Che faccio io? Che faccio? Che dovrei fare? Io sapete cosa faccio? Io esorto gli ebrei e naturalmente anche i filistei a ravvedersi. I palestinesi li chiamo filistei, Allora, a ravvedersi, a credere nell'Evangelo di Cristo. Questo è il mio mandato! Questo è il mio mandato! Io non è che mi dichiaro amico di quel popolo, nemico di quell'altro popolo, io sono amico di quelli che temono il Dio, che si chiamano poi ebrei, o siano palestinesi, a me non importa. I miei fratelli in Cristo sono sia, diciamo, tra gli ebrei che tra i palestinesi, e io amo gli uni come amo gli altri, sicuramente non prenderò le parti di uno Stato o dell'altra parte che fa guerra a questo Stato. Io sono per i santi, per i figlioli di Dio, che poi questi siano ebrei di nascita o siano palestinesi di nascita, a me personalmente importa poco, io sono per loro. Per quello che vi dico, preghiamo per i nostri fratelli che si trovano là in mezzo a questa guerra. Sì, sì, per i nostri fratelli, sia che si trovano nella striscia di Gaza, sia che si trovano nel territorio israeliano. Preghiamo per loro, sì, preghiamo per loro affinché Dio li protegga. E preghiamo sia per gli ebrei che per i palestinesi increduli affinché il Signore gli dia ravvedimento e la fede. Questo dobbiamo fare, altro che metterci a fare politica. Politica, no, niente politica, non ci mettiamo a fare politica. Allora, vi stavo dicendo, il messaggio che bisogna rivolgere agli ebrei è un messaggio chiaro, chiaro, perché bisogna annunciargli la buona novella che Gesù è il Messia, il Cristo, questa è la buona novella, la buona novella, non è che ce n'è un'altra oltre a questa, questa è la buona novella, cioè l'Evangelo. Non credete a quelli che vi vengono a presentare un altro Evangelo, che sono anatema quelli, credete. Avete creduto nell'Evangelo? Ecco, continuate a credere nell'Evangelo. State attenti a quelli che vi presentano un altro Evangelo. Allora, cosa faceva Apollo? Con grande vigore confutava pubblicamente Gesù, dimostrando per le scritture che Gesù è Cristo. Oh, ecco. Allora, voi sapete che i giudei di allora, come i giudei di adesso, negano che Gesù è il Cristo. Sono degli anticristi, sono degli increduli, negano che Gesù è il Cristo. Allora, cosa faceva Apollo? Mediante le scritture, perché lui le conosceva, le scritture, dimostrava che gli ebrei, i giudei, avevano torto, cioè dimostrava l'erroneità della loro posizione, della loro dottrina, della loro opinione, della loro tesi, fate voi, però praticamente dimostrava l'erroneità di quello che dicevano i giudei, perché naturalmente i giudei, diciamo, che c'erano nella Caia, come anche in qualsiasi altra, diciamo, come si dice, provincia romana di quel tempo, o comunque qualsiasi parte dell'impero romano di quel tempo, negavano che Gesù era il Cristo. Allora Apollo pubblicamente, con le scritture, li svergognava. Li svergognava! Perché? Perché dimostrava per le scritture che Gesù è Cristo. Ah! ce ne fossero veramente, ce ne fossero di Apollo oggi, ce ne fossero di Apollo oggi, veramente, perché veramente ce n'è bisogno, c'è bisogno di uomini come Apollo, eh? Ebrei, sarebbe veramente bellissimo proprio che fossero proprio ebrei come Apollo, che veramente pubblicamente, quindi con coraggio, perché ci vuole coraggio, per confutare pubblicamente i giudei, dimostrino per le scritture che Gesù è il Cristo, quindi citando la legge, i salmi, i profeti, dimostrare che Gesù di Nazareth è il Messia, e turargli la bocca quindi ai giudei, che naturalmente si arrabbieranno, lo sappiamo, ti perseguiteranno, ti oltraggeranno, però questo è quello che aspetta tutti coloro che annunziano ai giudei la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Per quello molti appunto non gli interessa confutare i giudei, non gli interessa annunziare la buona novella ai giudei. Perché? Perché c'hanno paura della persecuzione, dell'odio che poi i giudei rivolgeranno contro di voi. Ma voi leggete il libro degli Atti degli Apostoli, ma avete visto com'erano odiati gli apostoli dai giudei? Avete visto com'era odiato l'apostolo Paolo dai giudei? Ma perché erano odiati dai giudei? Perché annunciavano la buona novella ai giudei che Gesù è il Cristo. Quindi vedete l'utilità, diciamo, dell'opera del confutatore. Quindi chi confuta fa, diciamo, è di aiuto. Anzi, guardate, per usare l'espressione che usa qui Luca, di grande aiuto. E questo, naturalmente, lo posso dire di me stesso alla gloria di Dio. Perché quello che vi sto per dire, naturalmente, come anche quello che vi ho detto, lo dico alla gloria di Dio, come anche quello che faccio, qualunque cosa facciate in opera o in parola. Noi cosa dobbiamo fare? Fare tutto alla gloria di Dio. E poi, appunto, ricordiamoci sempre questo, che Paolo glorificava il suo ministero, per guadagnare, appunto, diciamo, delle anime al Signore. Poi, quando si fa qualcosa, si dice qualcosa alla gloria di Dio, chi ascolta e chi vede, se è da Dio, lo capisce, che la cosa viene detta e fatta alla gloria dell'Iddio vivente, è vero. E allora posso dirvi, sì, grazie a Dio veramente per tutto, che ormai sono, diciamo, decenni che confuto, diciamo, pubblicamente giudei e anche non giudei, e devo dire che questa opera confutatoria che Dio mi ha dato la grazia di iniziare, di portare, diciamo, avanti fino a questo giorno, è stata veramente di grande aiuto. Voi sapete che ho confutato gli ebrei, sapete che ho confutato i musulmani, sapete che ho confutato il New Age, sapete che ho confutato i mormoni, i testimoni di Geova, gli avventisti del settimo giorno, i mariani, cioè i cattolici romani, sapete che ho confutato i satanisti, gli astrologi, gli spiritisti, ho confutato la Chiesa dell'Unificazione, ho confutato, rischio di dimenticarmi, sono così tanti, comunque. I mormoni li ho detti, non li voglio dimenticare, comunque, se li ripeto, pazienza, comunque ho confutato i mormoni, che sono una setta veramente tra le più pericolose. Diciamo che ho confutato veramente tanti. Poi, naturalmente, ho confutato anche tanti evangelici, tante chiese evangeliche. Ho confutato tante chiese evangeliche, come ho confutato tanti pastori evangelici che insegnano false dottrine. Voi sapete che ho confutato i valdesi, ho confutato i luterani, i metodisti, sapete che ho confutato la Chiesa dei Fratelli, sapete che ho confutato, diciamo, tante chiese pentecostali, ho confutato la Parola della Grazia, ho confutato la Chiesa Apostolica in Italia, ho confutato le assemblee di Dio in Italia. Ma adesso per citarne solo alcuni, ma chiaramente poi evidentemente non è che ho computato i battisti, ecco, ho computato i battisti tra i non pentecostali. Insomma, ho confutato anche tanti, tanti evangelici, come anche, diciamo, tanti, tanti pentecostali. Ora, voi conoscete la mia opera nel Signore, ed è un'opera che veramente, grazie sempre al Signore, è stata di grande aiuto fino adesso. È stato di grande aiuto fino adesso per una semplice ragione, perché essendo un'opera che, diciamo, dimostra l'erroneità di, diciamo, delle false dottrine, è chiaro che coloro che hanno creduto mediante la grazia ne hanno beneficiato sia dalle predicazioni confutatorie sia dagli scritti confutatori, perché chiaramente hanno compreso la falsità alla luce delle scritture. Di determinate dottrine. Vi potrei fare tanti esempi. Per esempio, io sapete che ho confutato molto il cosiddetto libero arbitrio, una dottrina che appunto è definita libero arbitrio, secondo la quale il destino se lo crea l'uomo. Ho confutato il cosiddetto rapimento segreto, ho confutato l'imposizione della decima, per, diciamo, citare alcune delle false dottrine più, diciamo, diffuse in ambito evangelico, compreso quello pentecostale. Ebbene, solo per citare veramente solo la confutazione di queste tre dottrine, sapete, tantissimi, tantissimi, tantissimi credenti hanno abbandonato il libero arbitrio, hanno abbandonato l'imposizione della decima, hanno abbandonato il rapimento segreto, grazie appunto a questa opera confutatoria che il Signore mi ha dato di iniziare e di portare avanti fino a questo preciso momento. Ora, io do gloria a Dio perché chiaramente la nostra capacità viene da Dio, la mia capacità viene da Dio, non è una capacità che viene da me, lo riconosco. E per cui sono grato al Signore perché mi ha dato questa capacità e mi ha messo in grado di confutare pubblicamente, ma anche privatamente, perché è ovvio che quando vengono a trovarmi i fratelli, chiaramente anche quando vengono a trovarmi i fratelli, io comunque sia, faccio, diciamo, la mia opera, diciamo, confutatoria. È chiaro che il mio ministero non è esclusivamente quello di confutare le false dottrine, però, siccome che ne è parte, è chiaro che coloro che mi ascoltano spesso mi ascoltano mentre confuto le false dottrine. E allora quest'opera naturalmente è stata ed è e continuerà a essere di grande aiuto perché i credenti, appunto, sentendo la verità, abbandonano l'errore. E vi stavo dicendo, veramente sono tantissimi nel corso di questi decenni, i credenti, quindi figlioli di Dio, che hanno abbandonato una, due, tre o più dottrine false ancora, no? Grazie appunto a quest'opera. Ora è sempre bene ricordarlo che colui che opera in noi il volere e l'operare è Dio. Cioè, chi è che ha operato dunque in me affinché io compissi quest'opera e volessi compiere quest'opera? È stato il Dio ed è tuttora il Dio. Io riconosco, e questo lo riconosco sia privatamente come anche pubblicamente, che non avrei potuto mai fare quello che ho fatto fino adesso e non potrei nemmeno, diciamo, farlo ora se veramente non fosse per la grazia di Dio che è con me. Riconosco veramente che senza la grazia di Dio non potrei fare appunto neppure questa opera di confutazione. Infatti vi ricordo che l'Apostolo Paolo, scrivendo ai santi di Corinto, che cosa gli disse? Dice: ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Quindi è la grazia di Dio che è con me, appunto, che ha fatto ciò. E questo lo voglio sottolineare. questo lo voglio sottolineare, perché quando mi chiedono, ma fratello Giacinto, ma tu come hai fatto, come fai? E come ho fatto? E come faccio? Lo faccio perché è la grazia di Dio che è con me che fa questo. Io altrimenti non potrei fare niente. E Dio si è compiaciuto appunto di elargirmi questa grazia. Io sono naturalmente felice di ubbidirgli, sono veramente grato a Lui, non avrei mai immaginato un giorno di fare tutti questi scritti confutatori, di fare diciamo tutte queste predicazioni confutatorie. È il Signore che mi ha veramente messo in grado di fare ciò. Ed ecco perché io, sapendo questo, voglio sempre esaltare la grazia di Dio, sempre, sempre, perché la grazia di Dio è l'immeritato favore di Dio. Io non ho meritato nulla di quello che il Signore mi ha dato e di quello che ho e che metto a servizio della Chiesa. Assolutamente non ho meritato nulla, non è che me lo sono guadagnato con preghiere, digiuni, elemosine, no, fratelli del Signore, è stata la grazia di Dio. Dio ha voluto veramente darmi questa grazia, lo voglio ribadire perché i ministeri Dio li dona gratuitamente, non in cambio di opere buone che noi facciamo. Sono doni di ministerio, è come il dono, come la vita eterna. La vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. E così anche i doni di ministerio sono doni, come il dono dello Spirito Santo. È così, fratelli nel Signore. Un dono che cos'è? Che cos'è? È qualcosa che uno si merita? No, è qualcosa che uno non si merita. Quindi io ho ricevuto dal Signore questa grazia e sono felice appunto di mettere al servizio dei santi quello che il Signore mi ha dato e faccio quello che il Signore disse tramite appunto l'Apostolo Pietro, quando l'Apostolo Pietro disse queste parole. Dice: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo faccia valere al servizio degli altri. Ecco, dunque, io faccio valere il dono che Dio mi ha dato al servizio degli altri. E quindi, chiaramente, ho il diritto di parlare, naturalmente, diciamo, del beneficio, dei benefici che hanno tratto, diciamo, le chiese dei santi dalla mia opera confutatoria nel corso dei decenni. Ormai sono veramente tantissimi coloro che mi hanno telefonato, scritto, diciamo ringraziando il Dio, essendo riconoscenti a Dio, perché appunto tramite una predicazione o più predicazioni o uno scritto tramite più scritti, il Signore gli ha dato appunto di intendere le scritture e quindi di praticamente abbandonare chi libero arbitrio, rapimento segreto, l'imposizione della decima e poi tante altre false dottrine. E naturalmente questo è motivo di lode a Dio. È motivo di lode a Dio perché, vedete, fratelli nel Signore, non è solamente una grazia poter confutare chi predica le false dottrine, è una grazia anche capire l'errore in cui uno è caduto, è una grazia anche uscire dall'errore in cui uno era caduto, lo sapete questo? Anche questo, ricordatevelo, è una grazia di Dio. Cioè, voi non avreste mai potuto abbandonare una falsa dottrina se il Signore veramente non vi avesse aperto la mente per intendere le scritture, perché non sono io che apro la mente per intendere le scritture, io dimostro mediante le scritture che il libero arbitrio è una menzogna, che il rapimento segreto è una menzogna, che l'imposizione della decima è una menzogna, io dimostro per le scritture, ma chi è che apre la mente ai credenti affinché intendano le scritture? È il Signore. Quindi quando a me mi viene detto: fratello Giacinto, sai, ho abbandonato, ho ascoltato la tua predica, adesso non ci credo più al libero arbitrio, io dico: grazie a Dio, perché ti ha aperto la mente per intendere le scritture. Mi ricordo tanti anni fa un fratello mi telefonò un'ora tarda, ma proprio era tarda, tant'è che io mi preoccupai un po' perché sentì il telefono squillare, un'ora tarda, e disse: ma chi è che mi chiama a quest'ora? Ed era un fratello che stava meditando sulla predestinazione, mi disse: Giacinto, veramente ho sentito in cuore di chiamarti per ringraziarti, perché tramite appunto la tua opera veramente io ho creduto in questa meravigliosa dottrina, che è la dottrina della predestinazione. E io dissi: beh, ringraziamo il Signore che ti ha dato appunto di accettare la dottrina della predestinazione. Per farvi capire, chiaramente il ringraziamento va al Signore. Deve andare al Signore, sempre, sempre. Quindi vedete, anche chi poi alla fine, diciamo, riconosce la verità, perché riconosce la verità? Perché si ravvede. Ma chi è che gli dà di ravvedersi? Chi gli cambia la mente? Il Signore e Dio. Ho visto e sentito veramente con i miei occhi e con le mie orecchie fratelli che mi hanno raccontato che prima veramente credevano nel libero arbitrio e poi dopo l'hanno abbandonato, hanno cominciato ad annunciare il proponimento delle elezioni di Dio, a credere nel proponimento delle elezioni di Dio, e mi hanno detto effettivamente che è stato il Signore. Solo il Signore poteva fargli intendere quello che hanno inteso. È una grazia dell'Eterno. Quindi ci tengo veramente a dirvi questo. Però volevo dirvi anche qualche cosa d'altro. Vi volevo dire che, diciamo che questa mia opera confutatoria, che ormai va avanti per la grazia di Dio, con l'aiuto che viene da Dio da decenni, è stata utile anche a me, no? Perché qualcuno sapete, sentendomi o vedendomi confutare, naturalmente pensa all'utilità che quest'opera ha nei confronti, diciamo, di coloro che mi ascoltano e mi leggono. Però sapete, questa opera ha avuto mi è stata di grande aiuto a me stesso. Perché mi è stata di grande aiuto a me stesso? Perché ho ricevuto e ricevo tuttora delle conferme a cose che sono scritte nella parola del Signore. Per esempio, il diavolo esiste. Cioè, qualcuno potrebbe dire: come? Certo, perché? Allora, che cos'è che confuto? Le menzogne, giusto? Perché la verità non può essere confutata, non possiamo nulla contro la verità, quello che possiamo è per la verità. Allora noi confutiamo le menzogne, io confuto le menzogne, le dottrine menzogniere. Ora, chi è il padre della menzogna? Il diavolo. Non è così? È lui, bugiardo, il padre della menzogna. Allora, sapete, quando si confutano, quando si studiano, perché chiaramente le false dottrine, prima di essere confutate, vanno studiate, sennò tu che cosa confuti? L'avversario, va studiato, perché altrimenti tu come fai a affrontarlo, l'avversario, in maniera vincente, capite? Perché praticamente è un combattimento. Quando si confuta una falsa dottrina, è un combattimento. Perché la confutazione fa parte del combattimento della fede, per la fede, che appunto devono affrontare coloro che sono stati stabiliti da Dio, in particolare coloro che sono stati stabiliti nel ministero di dottore. Allora, quando si confuta una falsa dottrina, studiandola, quella falsa dottrina, tu ti rendi conto che quella appunto è una menzogna. Allora dici: ma chi è che l'ha generata questa menzogna, che non ha niente a che fare con la verità? Il diavolo. E allora ti ricordi di quello che sta scritto nella Bibbia in merito al diavolo. Capite? È così. Ora, il diavolo, naturalmente, odia la verità. Questo è qualcosa che dovete avere sempre presente. E appunto partorisce le menzogne proprio perché odia la verità e vuole sedurre quante più anime possibili, e cerca di sedurre anche i figlioli di Dio. Quindi, quando io studio le false dottrine prima di confutarle, dico: ma guarda il diavolo come odia la verità che è in Cristo Gesù. la odia veramente tanto, infatti cerca di distruggerla. Certo, contro la verità non si può niente, però lui comunque sia ci prova a distruggere la verità. Con che cosa? Con le armi che possiede. E appunto tra le armi che possiede, che sfoggia, ci sono appunto le menzogne. Ed ecco appunto tutta questa, diciamo, lista di false dottrine, sono tantissime. Io mica le ho confutate tutte, fratelli nel Signore, le false dottrine. Diciamo, ne ho confutate un buon numero, ma non è che dico che le ho confutate tutte, no, perché ce ne avrei da confutare ancora di false dottrine. Quando il Signore, se il Signore lo permetterà, lo farò, però credetemi, di false dottrine ce ne sono ancora tante. Sia, diciamo, quelle che insegnano le religioni, ma anche quelle che insegnano, diciamo, le chiese. E allora, quindi quando io studio, diciamo, le false dottrine per poi confutarle, mi avvedo proprio che veramente il diavolo proprio odia la verità. Il diavolo non è un simbolo, non è un'idea. Il diavolo è un essere spirituale malvagio, esistente. Non è da prendere, diciamo, come un'allegoria. Sapete, oggi molti evangelici non credono nell'esistenza del diavolo. Figuriamoci. E allora, appunto, nello studiare le false dottrine, chiaramente poi vengono in mente tutti quei versetti della scrittura che parlano dell'opera del diavolo, che è appunto bugiardo e padre della menzogna. E quello che appunto poi emerge, che cos'è? Che il diavolo, odiando la verità, odia anche la Chiesa. Perché odia anche la Chiesa? Perché la Chiesa è colonna e base della verità. Molti questo non lo sanno, altri lo hanno dimenticato. Allora è bene dirlo questo, allora ridirlo. Dice l'Apostolo Paolo, nella sua epistola a Timoteo, io ti scrivo queste cose sperando di venire tosto da te, e se mai tardo affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Quindi la Chiesa di Dio non è un locale di culto, non è un locale di culto, la Chiesa di Dio siamo noi che siamo appunto stati tratti, scelti di mezzo al mondo, per essere di Cristo. Noi siamo la Chiesa dell'Iddio vivente. E com'è che la Scrittura ci chiama? Colonna e base della verità. Noi sorreggiamo la verità, ma la verità è odiata dal diavolo. Quindi il diavolo è chiaro che è del tutto normale che odia anche la Chiesa dell'Iddio vivente. La Chiesa dell'Iddio vivente non è una denominazione, anche questo, no? Sapete, ci sono quelli che dicono, noi siamo l'opera di Dio, come se appunto fuori da quella denominazione non ci fossero salvati. Sapete che ci sono ancora oggi delle chiese pentecostali che hanno questa idea, fuori dal nostro mezzo non ci sono salvati, sono, diciamo, chiese settarie. Allora, la Chiesa è formata da tutti coloro che sono stati scelti di mezzo al mondo, scelti dal Signore e che sono quindi del Signore, che sono di Cristo Gesù, i chiamati fuori. Ricordatevelo sempre questo, e che sono gli eletti. Allora, colonna e base della verità. Allora, è evidente che quindi il diavolo, odiando la verità, odia anche la Chiesa e quindi cerca di, diciamo, distruggere la Chiesa. Però noi sappiamo che non importa quanto si impegni e si impegnerà, il diavolo non riuscirà a distruggere la Chiesa di Dio, perché la Chiesa di Dio è edificata sulla pietra angolare che è Cristo Gesù, il Figlio di Dio, la verità. Allora, dice così Gesù: le porte dell'Ades non la potranno vincere. Infatti, io che cosa ho potuto appurare, diciamo, studiando le false dottrine? Che il diavolo non è riuscito nel corso di tanti secoli a vincere la Chiesa di Dio, perché le false dottrine di oggi, peraltro, sono false dottrine antiche. Allora, considerate che appunto in tanti secoli le porte dell'Ades non sono riuscite a vincere la Chiesa. Veramente il diavolo si è scagliato contro la Chiesa di Dio, introducendo nella Chiesa di Dio ogni sorta di menzogna. Guardate, sono veramente le menzogne, prendete anche per esempio solo le menzogne della Chiesa Cattolica Romana, e quante sono? Ma sono tantissime, io ne ho computate tante nel mio libro. Ebbene, anche diciamo, introducendo tutte quelle falsità, non è riuscita a vincere la Chiesa. La verità sussiste ancora oggi. La Chiesa sussiste ancora oggi, la Chiesa di Dio, e appunto la Chiesa di Dio si leva in favore della verità contro la menzogna. Vedete, anche queste cose sono cose molto edificanti, sono cose molto incoraggianti per me stesso che confuto, perché dico, vedi, la verità è invincibile, la verità emerge sempre trionfante, Quando uno studia la storia della Chiesa e legge veramente la storia delle eresie, quante eresie! Già mentre gli apostoli erano in vita sorsero, diciamo, falsi dottori, falsi apostoli, ci furono false dottrine, ma dopo la morte degli apostoli anche tantissime, eppure, fratelli nel Signore, ancora oggi la Chiesa di Dio, colonna e base della verità, sussiste, e la verità è ancora, diciamo, come si dice, viva! La verità è viva, non è morta, la verità è viva, e il diavolo lo sa questo. Quindi il diavolo odia la Chiesa, naturalmente si scaglia contro la Chiesa e i ministri della Chiesa, i ministri stabiliti da Dio nella sua Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo, per il perfezionamento dei santi, perché vedete, fratelli e signori, i ministri di Dio sono coloro che sono, diciamo, in prima linea, usiamo questa espressione. Naturalmente questa è la volontà di Dio, ed hanno naturalmente un compito particolare che non hanno tutti. Allora vediamo un po' che cosa dice l'Apostolo Paolo ai santi di Efeso, perché così almeno comprendete perché il diavolo si scaglia contro i ministri stabiliti da Dio. Dice Paolo al capitolo 4 degli Efesini: ed è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliolo di Dio, allo stato d'uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che seguitando verità in carità noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Capitolo 4 degli Efesini, dal versetto 11 al versetto 16. Ora, queste parole che cosa ci fanno capire? Che i ministri di Dio svolgono un'attività utile ai santi, quindi sia gli apostoli, sia i profeti, sia gli evangelisti, sia i pastori e anche i dottori, perché questi sono ministeri, non è che esiste solo un ministero. Allora, diciamo che, vedete cosa dice la scrittura, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini e per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Che cosa significa questo? Che i venti di dottrina che soffiano, e come se ce ne sono tanti di questi venti di dottrina, diciamo sono prodotti dalla frode degli uomini e dall'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. E già, attenzione, questo è molto importante. Perché questa è una cosa che emerge quando si studiano le false dottrine, io ve lo posso assicurare. Cioè, praticamente, quando si studiano le false dottrine, tu ti avvedi, tu scopri la frode degli uomini. Perché le false dottrine sono il prodotto della frode degli uomini, dell'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Cioè, tu praticamente riesci a, conoscere le arti seduttrici dell'errore. Capisci come operano? i nemici della verità, quali sono i loro stratagemmi per cercare di introdurre di soppiatto nella Chiesa le eresie di perdizione. È utile, quello che veramente io ho fatto nel corso di questi decenni mi è stato molto utile per capire la frode, per capire l'astuzia dei servi del diavolo, che sono in mezzo alla Chiesa travestiti da ministri di Cristo. Attenzione, perché c'è un travestimento in corso. Il lupo rapace si presenta appunto vestito da pecora o da agnello e usa naturalmente l'astuzia, la frode, per cercare di introdurre di nascosto delle false dottrine. Naturalmente, chiaramente questi sono astuti come il serpente antico, che vi ricordo sedusse Eva con la sua astuzia. Infatti questi servi del diavolo che si sono introdotti in mezzo alla Chiesa seducono con la loro astuzia. E quando studi le false dottrine, come ho fatto io, questa astuzia la vedi. Perché loro adulterano la parola, falsificano il senso di quello che è scritto. Quindi praticamente è scritto una cosa ma gli danno un altro significato. Adulterano la parola di Dio perché aggiungono, tolgono, capite? Torcono le scritture a loro perdizione, praticamente fanno dire a una cosa scritta una cosa totalmente che non dice quella cosa scritta, capite? Allora quando appunto io studio le false dottrine, vedo tutto ciò, allora dico non c'è niente di nuovo sotto il sole, ciò che è già stato prima. Capite dunque? Dunque per quello che vi dico, che naturalmente questa opera confutatoria mi è stata e mi è tuttora, diciamo, utile a me. Ma poi, appunto, come accennato prima, emerge una cosa. Questa cosa emerge. Che il diavolo non può distruggere la verità. Allora, io, diciamo, voglio dire, come si dice... Io sono fatto di polvere e cenere, quindi sapete, poi sei polvere, in polvere ritornerai, dice la Sacra Scrittura, no? È stabilito che l'uomo muore una volta solo. Quindi il discorso qual è? Noi possiamo anche sparire dalla faccia della terra. Sì, beh, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro non ci sono più, ma attenzione, la verità non sparirà. La verità non sparisce assieme ai ministri, Loro tornano alla polvere, in attesa poi della risurrezione, la loro anima si diparte, va ad abitare col Signore, però attenzione che la verità sussiste in eterno e la verità sarà indistruttibile, anche quando io non ci sarò più, la verità rimarrà invincibile, indistruttibile, non è che io adesso sto vedendo la verità vincere sempre, Vedo che la verità non può essere distrutta da nessuno, da niente, ma questo continueranno a vederlo anche le future generazioni, anche dopo di me il Signore poi susciterà altri che come me, diciamo, confuteranno le false dottrine e anche loro dovranno dire le stesse cose, la verità è invincibile, è indistruttibile, pensate che il diavolo ce la mette tutta per distruggere la verità. Ricordatevi che il diavolo è il principe di questo mondo, è il seduttore di tutto il mondo, C'ha al suo servizio tantissimi demoni, c'ha al suo servizio tanti angeli, Sono chiamati gli angeli di Satana. E poi naturalmente sulla terra c'ha tanti suoi ministri come anche tanti suoi figlioli, il diavolo. Eppure tutta questa, diciamo, esercito, lanciato da lui contro la verità, non riesce a vincere la verità, a distruggere la verità. Ma quanto è potente la verità di Dio? Sì, è potente, perché è la verità di Dio. Nessuno è mai riuscito a vincere e a distruggere la verità. Ecco perché Paolo dice: non possiamo nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità. Però c'è sempre qualcuno che pensa di fare qualcosa contro la verità, eh? Ah, fino alla fine si impegnerà a lottare contro la verità, perché loro lottano contro Dio, si sforzano dalla mattina alla sera, pensano come fare per distruggere la verità, però succede che poi Dio distrugge loro. Dio distrugge loro, peggio per loro, hanno voluto lottare contro Dio. Io non ho mai esortato a lottare contro Dio, però c'è chi esorta. Dobbiamo lottare contro Dio! Ma chi è questo bestemmiatore qua? Eh sì, c'è chi dice queste cose qua. È gente veramente demente, gente veramente che, sapete, hanno una mente malata queste persone, hanno una mente corrotta. Questi qua hanno una mente diabolica. Solo chi ha la mente diabolica può dire dobbiamo lottare contro Dio. Tu, rottame fra i rottami, tra i vasi di terra, ti metti a lottare contro Dio. Ti metti a lottare contro Dio. E infatti poi si vede come il Signore li distrugge, li annienta, li svergogna, li confonde, si fa gioco di loro. Anche questo ho visto. Già, ho visto anche questo, che appunto coloro che si lanciano contro la verità, cercandolo di distruggere, di vincerla, poi appunto il Signore li svergogna, li confonde, li distrugge, li toglie dalla faccia della terra, anche in giovane età, non li fa nemmeno arrivare veramente in tarda, cioè a diventare anziani. Il Dio è tremendo, state attenti perché tutti coloro che si mettono contro la verità si mettono contro Dio, perché la verità è di Dio. Io voglio ricordare ai lottatori contro Dio quello che dice la Sacra Scrittura. Qualche lottatore contro Dio mi ascolta sempre. Allora, sapete, sono come quelli che dicono: a me non mi piace quel programma televisivo, però non mi perdo mai una puntata. E ci sono quelli che dicono: io odio Giacinto, vorrei tagliargli la testa, vorrei che sparisse dalla faccia della terra, non è degno di vivere. Però non si perdono la mia predicazione, non si perdono un mio post, non si perdono un mio commento. Sapete, il mondo va così. Allora, poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Attenzione dunque, voi che lottate contro Dio e che pensate di vincere, già, perché loro si illudono di vincere contro Dio, ricordatevi sempre che l'ira di Dio, a voi vi aspetta l'ira di Dio, fosse domani mattina, fosse stanotte, fosse stasera stessa, domani, dopodomani, non si sa, non lo sappiamo, però una cosa è certa, l'ira di Dio vi aspetta e arriva puntuale. Perché voi siete tra quelli, gli uomini, che appunto soffocano la verità con l'ingiustizia. Non importa come vi chiamate, non importa quanti titoli avete, non importa quanti followers avete. I followers sono quelli che appunto seguono costoro. No. Voi siete tra coloro che soffocano la verità con l'ingiustizia. Quindi sappiate che l'ira di Dio si rivelerà dal cielo. Se già non si è rivelato. Quindi, quello che consola è sapere che poi alla fine, da un lato, noi siamo chiamati a levarci in favore della verità, che è invincibile, che è indistruttibile, ma dall'altro sappiamo che Dio è con noi, è per noi. E quindi ci favorisce in quest'opera di difesa della verità che è in Cristo Gesù. Quindi vi incoraggio, fratelli e sorelle nel Signore, a levarvi, intanto a continuare a dimorare nella verità, e poi a levarvi in favore della verità che è in Cristo Gesù. Ricordatevi, la verità è invincibile, è indistruttibile. Io l'ho visto e lo continuo a vedere. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.